situazione economica, naturalmente. Le donne dovranno usarsi speciali riguardi, ovvero non eccedere le 60 ore settimanali, escluderle per quanto possibile dai lavori notturni e proibire loro il lavoro nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo dopo il parto. 1919. Iniziano le violenze squadriste contro le donne, che non hanno lasciato i loro posti di lavoro nelle fabbriche ai reduci della guerra. Noi colleghi, deposita una proposta di legge per l'abolizione delle case chiuse. I marcimoni dell'amore, Marina, quelle sono donne viziose costrette al mestiere da una iperfunzionalità ovarica. Così dicono. 9 anni di dibattimento. La legge poi vide la luce. Dal 1950. Salariale, parità di mansione, che elimina ogni discriminazione e differenza. 146 aziende, tutta al femminile. Senza elettricità, senza riscaldamento. al freddo con uno scialle fatto all'uncinetto. Era perennemente ammalato. Ma... dal 1951 al 1961, 10 milioni di stanze in più! Dal 1961 al 1981, 41 milioni di stanze in più! Alla fine degli anni 90 nel nord-est Italia non c'erano più di 200 metri in linea d'aria senza una costruzione. L'amore per la vita coincidesse con l'amore fisico. Le della famiglia. Scompare la dote, l'autorità maritale e paterna, e con essa lo ius corrigendi, il diritto di correggere, di praticare, di picchiare, moglie. Incontra una giovane fanciulla, vergine, l'afferra e facendo le violenze si giace con lei, muore soltanto l'uomo che si è giaciuto con lei. Non fate nulla alla giovane. Ella non ha commesso colpa degna di morte. È come il caso di uno che assale il suo prossimo e lo uccide. Infatti, egli ha trovato quella donna per i campi. Ella può avere anche gridato. Ma nessuno è venuto in suo aiuto. Se invece un uomo incontra una giovane fanciulla, vergine, non fidanzata, si giacciono insieme e vengono scoperti, l'uomo deve pagare al padre di lei 50 sicli d'argento. Ed ella sarà sua moglie, perché l'ha disonorata. E mai, mai la potrà mandare via per tutta la vita. La legge faceva distinzione fra atti di libidine e violenza carnale. Spesso molti processi si risolvevano in un'attenta analisi del livello di verginità anatomica violata. La Cassazione stabilì al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tocco sufficiente, tanto da consentire il riversamento spermatico dentro la vagina, allora era considerato un rapporto completo. Se non vi era versamento spermatico o penetrazione, ma anche solo un piccolo contatto intimo, offensivo, tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente al coito, non veniva riconosciuta la congiunzione. Se non vi era congiunzione, non veniva riconosciuto il reato e variava l'entità della pena. È il 1979. Viene scritta una bozza di legge che include lo stupro nei reati contro la persona e non astrattamente contro la morale pubblica. Allorché un uomo commetta nei confronti di una donna nubile e illibata stupro o violenza carnale punibile con le pene previste dagli articoli 544 del Codice Penale, onde evitare il processo e al fine di far cessare la pena detentiva inflitta, può offrire alla ragazza il matrimonio riparatore, facendo così cessare ogni effetto penale e sociale del suo delitto. Lo stupratore, affinché possa usufruire del beneficio di legge, deve offrire alla ragazza il matrimonio riparatore addossandosi altresì tutte le spese della cerimonia e senza poter pretendere alcuna dote. Articolo 544 del Codice Penale, abrogato il 5 agosto 1981. 17 anni di procedura parlamentare. È il 1996 e la legge contro la violenza sessuale viene approvato. Febbraio 1999. La Cassazione stabilisce che è impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans e assolve un istruttore di scuola in guida condannato in primo e in secondo grado. Anche nello stato più militarizzato una cosa del genere può sempre capitare. Dovremmo avere tanti soldati quante sono le belle ragazze. Credo che non ce la faremo mai. Gennaio 2009, Presidente del Consiglio. Bar della spiaggia. Parole in libertà sul lavoro, la vita d'avvocati, la famiglia. Simpatico, estroverso, differente da chiunque avessi mai conosciuto prima. Nel salutarmi un abbraccio, stringendomi a sé. Mi innamorai in quel preciso momento. Mi piaceva tutto di quel ragazzo, di cui non sapevo praticamente nulla. Nel giro di un'ora era diventato così attraente da essere irresistibile. Una calamita.

uno scandalo che contribuì drasticamente a diminuire il numero di abbandoni infantili, i cosiddetti figli di NN, non nominato. Scandalo, hai saputo? No. Hanno arrestato Giulia Occhini. Giulia chi? Giulia Occhini. Ma ando io alla Maddie, quella che te la chiama Coppo. Coppi avrebbe mamato, Coppi non era sposato. Ma sì, anche lei non si ama tanto. Ma diciamo le gente tutte le cose. Vero, giudice bravo. Thank you. Maria Strada, la prima e unica donna a correre il Giro d'Italia con gli uomini. E Eugenia Grillo, viene nominata direttore generale in un'azienda telefoni di Stato. Alessandra Gerbi, pubblico ministero. Angela Gasparini, prima vigile donna a Roma. Lella Lombardi, la prima donna pilota in Formula 1. Lo spettacolo Donne, regia ed elaborazione del testo Simone Schinocca, interpreti Valentina Aicardi e Silvia Freda. Con Roberto Andò, regista dello spettacolo Piazza degli Eroi di Thomas Bernard. Roberto, ben trovato. Ben trovato, ciao. Come lo presenteresti? Guarda, è l'ultimo testo di questo grandissimo scrittore che ha sintetizzato con una grandissima orchestrazione i grandi temi della vita e anche il sentimento politico del nostro tempo. Ti spiego perché. Perché Bernard lo ha scritto nel 1988. Nel 1989 sarebbe morto poi, e quindi è il suo testamento. Però nell'86 in Austria si era insediato quel tale che si chiamava Haider come segretario del partito di maggioranza, il quale per la sua elezione a segretario volle che avvenisse nella capitale dove era nato Hitler, in Carinzia. Questo un po' per spiegare la cifra politica di quel governo e il tipo di populismo. Quindi diciamo, in qualche modo Bernard ha profetizzato quello che sarebbe avvenuto dopo in Europa, vedendo dall'interno la sua Austria contaminata da questa forza che era anche un ritorno al fascismo sotto forme diverse, prima degli altri, visto quello che è accaduto poi in Italia, che è accaduto in Grecia, che è accaduto in Germania, che è accaduto in Francia con Le Pen, che è accaduto in Ungheria, ovunque. E da questo punto di vista, quindi, è un testo che mette insieme questi due umori. Da un lato una profezia sul tema politico, ma soprattutto collegato al tema esistenziale, perché tutto si svolge intorno al suicidio di una persona, un professore che appunto è partito e ha lasciato l'Austria dopo il 38, dopo il famoso discorso che Hitler pronunciò nella piazza di Vienna per spiegare agli austriaci inneggianti che anche l'Austria avrebbe partecipato all'Anschluss, alla annessione al nazismo. E questo partito per Oxford, dove ha insegnato, poi torna a Vienna e quando torna a Vienna si accorge che questa patria non c'è, la sua patria non c'è, è ancora compromessa col nazismo. E quindi i personaggi che si aggirano in scena sono personaggi che hanno tutti a che fare, una è la governante di questo professore, gli altri sono le figlie con il fratello, che è anche lui un professore, questa volta che è partito per Oxford. E quindi ci sono le domande che si fanno, le persone che restano quando qualcuno se n'è andato. In questo caso, fra l'altro, lui si butta dalla finestra in quella piazza degli eroi, appunto, dove Hitler parlò. E le domande sono le domande sulle cose ultime della vita, sul senso della vita. Quindi sono domande che a teatro si amplificano, perché il teatro è sempre una domanda sul senso della vita. E nello stesso tempo però ci sono delle lunghe tirate, soprattutto del protagonista, cioè il fratello, che in questo caso è interpretato da Renato Carpentieri, sulla politica, su questo populismo, su questo fascismo che ritorna. C'è una frase bellissima che dice a un certo punto: il mondo è un palcoscenico dove si agitano milioni di dementi pronti a aspettare l'arrivo di un regista che li mandi definitivamente sul baratro. Questo per spiegare un po' il sentimento dopo che noi veniamo dalle immagini di Washington e di Trump che sobilla la folla. È l'innata tendenza alla deresponsabilizzazione, alla delega, no? Sì, la piazza non è soltanto il luogo che noi spesso esaltiamo del popolo che in qualche modo prende in mano se stessa la sua autonomia. È anche il luogo di una deriva dove si accumulano idolatrie, dove si accumulano non ragionamenti ma impulsi, passioni totalmente sbagliate, e quindi certe volte è il luogo del precipizio. Che taglio hai voluto dare alla messa in scena? Bernard è per me uno degli autori più importanti del Novecento e ha una caratteristica che lui racconta i personaggi nel loro pensare. È come se noi entrassimo nelle loro teste, e il pensiero è appunto un pensiero ricorsivo, affidato a una frase lunga che ha molte ripetizioni, quindi ossessiva, il luogo dell'ossessione, e con anche delle zone umoristiche. Qui ci sono degli attori che mi aiutano a dare forza a tutto questo, perché ho già citato Carpentieri, c'è Imma Villa, tutto il cast, devo dire, è un cast di attori brevissimi, ma il taglio è appunto quello di una micidiale rivendicazione di uno spazio umano oggi. Ecco, questo è il senso di questa pièce, secondo me. Il fatto che in qualche modo non lasci pensare che ci siano speranze, in realtà è un atto di fiducia nei confronti dell'uomo, e viene richiesto agli attori di intonare proprio questa liturgia che Bernard ha lasciato sulla pagina, che è una liturgia del pensiero che resiste, che vuole resistere nonostante tutto. E diciamo che l'altro grande tema è proprio la follia, perché noi sappiamo che Bernard ha scritto varie pièce dedicate anche a personaggi che sono a metà strada, borderline. In questo caso la protagonista insieme a Carpentieri è la vedova, perché se ne parla durante tutto lo spettacolo, poi alla fine nell'ultimo atto arriva, ed è una che ha somatizzato tutto il pericolo del ritorno del fascismo, perché lei sente come se fosse un'allucinazione acustica, avendo comprato loro una casa su Piazza degli Eroi, sente ancora le urla della piazza che inneggia Hitler, e quindi è in una situazione in cui entra ed esce dai manicomi. Ecco, questo altro aspetto è un aspetto che ha guidato un po' la regia, come si vedrà. Quindi è allo stesso tempo il luogo incandescente della ragione che in qualche modo non vede speranza per se stessa, tant'è vero che questo qui è un matematico, quello che si è suicidato, professore di matematica a Cambridge, quindi anche abituata alla lucidità della logica, no? All'inesorabilità della logica. E dall'altra c'è però anche questo crinale della non ragione che appunto si affaccia. Quindi la regia tiene conto di questi due pesi che Bernard considera centrali. Che percorso avete pensato per questo lavoro? Guarda, noi chiaramente avevamo previsto di debuttare in dicembre a Napoli, al Mercadante, poi dal 15 gennaio si era prevista una lunga tournée in tutta Italia, che cominciava dal Piccolo di Milano, passava poi Roma, Torino, Firenze, Brescia, Trieste, Palermo. E purtroppo questa tournée è rinviata. I teatri possono continuare l'attività interna di prove, eccetera, ma non possono presentare al pubblico i loro prodotti. Le attività sono sospese al pubblico e quindi noi aspettiamo che riaprano i teatri pienamente e penso che nella prossima autunno si riprenderà questa tournée. Speriamo in condizioni diverse, perché forse per quell'epoca i vaccini saranno già diffusi e quindi si potrà anche contare su un pubblico pieno. Per saperne di più online ci sono dei riferimenti internet? Su internet noi abbiamo raccontato un po' anche il cammino delle prove e abbiamo anche un po' parlato. Sul sito del nostro teatro si trovano vari documenti. Piazza degli Eroi di Thomas Bernard, un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Andò. Un abbraccio. Salute. In bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie tanto. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.